fai da bravo Antonino. Oh, io sono così, Tonini, gli stavo dicendo che la notte quando non dormo, che sto ravanando dall'insonnia, vado in cucina e do fondo a torroncini, datteri, panettoni, tutto quello che trovo. È quasi una patologia, no, è una patologia. Sì, ma occhio con la cosa dolce, che fa male. Sei più forte di me, più forte di me. E poi il cacao è controindicato anche per le altre cose, tipo prostatite, io ci sono già passato, ci sono già le avvisaglie. Aia! Occhio, occhio, che fa male. Carlo, dove sei arrivato? Sono all'incrocio di via Pascoli, via Boggino, fermo al semaforo. Già ti arrivo bene io lì, tutti quanti arriviamo bene, dai. Sì, sì. No, noi fortunatamente abbiamo le macchinette, c'è il caffè, il tè si può prendere, cioccolata, caffè goloso con una fruttatina di cioccolato. Insomma, e poi ci sono anche snack, ci sono che ne so, anche le bustine di mandorle, noci, già sappiamo un po' di tutto. Cavallette no? No, niente cavallette. No, perché le stanno prendendo tipo patatine, a quanto mi ha detto un amico che il nipote si è abitato, se le ha prese tipo patatine, dice che sono buone, fritte così. No, no, io vado sul sicuro, Gianni. Per carità, io ho visto un documentario dove c'erano quelli di colore, se le mangiavano vive, le masticavano proprio, gli tagliavano la testa con i denti, beh. Io ho visto mangiare gli africani, gli scarafaggi, cavallette. I due film che ho visto a Teatro Verde quando ero più ragazzo era Africa ama, Africa violenta. E anche io un documentario te li ho visti, li mangiavano vive le cavallette. Alla donna la sverginavano entrando un pezzo di legno sotto, all'uomo gliela chiudevano, tiravo e tagliavo un pezzo di pelle in più e rimaneva a capocchia fuori. Ma guarda, per carità, se mi ricordo quel film. Titolo, vado matto per queste cose. Africa ama, Africa violenza. Quelli sono in stile, vi ricordate quei documentari tipo Mondo Cane, Africa Dio, quella roba lì. Comunque guarda, uno schifo quando vedi mangiare scarafaggi, una cavalletta, perché tra i denti con la bocca a mezza aperta, tra, che schifo. E così faceva quello del programma TV, quello della sopravvivenza, aiutatemi, Bear Grylls, una cosa del genere. Sì, esatto, Bear Grylls, quello americano. Credo americano o inglese, una cosa del genere. Si mangiava quei vermoni, quelle larvone enormi trovate sotto la corteccia, come le mordeva usciva lo schizzo di, sembrava pulci. Sì, hai detto bene, era inglese, hai ragione, è vero. Una volta ho visto proprio che raccontava di sé, no, e aveva detto che lui era nei Navy SEAL, le forze inglesi, ed è proprio così, come schiacciava quei vermoni grandi ne usciva la roba bianca che sembrava pus. Ma era quello che tipo survivor, che quello che riusciva a vivere che da sotto e da niente mangiava quello che trovava. Proteine sono. Già c'è il formaggio per quello. I ragarri, dopo goduto, porcetto. Gianni, già metti un po' di crema e così non senti più il sapore. Almeno gli scarafaggi e le cavallette fossero piene di crema pasticcera, me la mangerei pure. La crema migliore è quella pasticcera, è fatta col limone ed è ottima. Mi sa che me la preparo io un po' di crema, Gianni. Guarda adesso come si fa e me la faccio io in casa. A Roma, una volta quando ero in albergo, c'era il bar sotto, sono sceso e ho fatto colazione e ho detto mi dà una frittella con la crema lì. E quello lì ha fatto, cosa la frittella con la crema? Il bombolone. Invece io ero a Padova con un'amica e al bar hai detto un caffè macchiato a me, cosa prendi? Sì, e lui mi fa, a me un macchiatore, ma giù che qui avevo un tazzone di latte e una goccia di caffè. Accidenti, il macchiatore. Ognuno c'ha il suo modo di esprimersi, in ogni città c'è il loro modo di esprimersi nelle cose, vabbè. Andare, i messaggi mi stanno arrivando, dai. Vabbè, mi sa che, visto che Carlo c'ha la compagnia, vi lascio, dai, che vado a guardarmi a Maria di Filippo. Sul serio? Eia, a me mi piace ogni tanto farmi scendere le lacrime. No, no, no, guarda, io, vabbè, la De Filippi ancora, ma quando vedi Uomini e Donne, quando vedi Il Grande Fratello VIP, quella è proprio TV trash. Io sono per i film, Netflix, Sky Go, cinema, eppure, come si chiama, Prime Video. Gianni, Maria De Calippi inizia alle 9, a 9 e un quarto, 9 e 20. Che ore so? Si è preso, sono le 8 e mezzo. Ma devo fare da mangiare a Tyson, eh? Quasi e mezzo, È 29 per esattezza. Ma è Tyson. Lì qua impara qualche volta che si non li mangiare. Oh, yeah. E a volte non mi sta mangiando la notte, lo sai. E mangia solo la mattina e poi lascia tutto quanto. E allora adesso ho imparato, glielo metto in frigo e di domani glielo riscaldo e glielo do. Ma lei si è messa dietro da solo sto cane, no? No, perché c'è anche carne, no, i soldi non li voglio buttare così. Capretto. E allora Carlo, ci senti sempre, sì? Sì, Tonino, già ti sento sempre. Sotto i ponti sono adesso. Sotto i ponti? E quale ponti? E l'ha portato fuori da casa la moglie. Sotto i ponti. Quei ponti che ci sono uscendo dopo la salita, insomma. Come esci da Conforama, no? Inizia subito quella salettina e poi ci sono dei ponti, non so, forse in uno passa un tubo, non so se è gas o che cosa, e poi l'altro è un cavata via. No, tubo di acqua senz'altro, gas non ce l'abbiamo tutti così noi. Ho capito dove sei, perfetto. Ci vado spesso in quella strada io, per carità, meglio non andarci più. Hai diritto. Canta, stasera sono andato a accendere il 2009, non accendevo, ho acceso l'alimentatore, non accendeva più. E che cosa era? Si era staccato il filo, lo spinotto da dietro l'apparato. Mi sono guffato innanzi. Te lo stavo per dire già, l'ha fatto anche a me. Cavolo, e meno male ci ho pensato, ma perché non accende? Ho pensato a un fusibile, ho aperto il coso e poi mi accorgo che lo spinotto era staccato all'interno. Io invece ho la giornata con tanti interruttori, interruttore generale, poi tutti interruttori, ogni presa che metto c'è un interruttore. Vado a accendere il generale e boh, guarda che non accende, ma come ti mai? Poi guardo la spina e spesso, attacco l'acceso, l'acceso. Ma se la biglia luci. No, è proprio il cavetto che esce dall'apparato, quello spinotto, quello lì si è staccato. Però chi ci pensa, c'ho mille fili dietro, c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apparecchi, 9 apparecchi attaccati. E vedi, ne truppi, troppo macello, la centrale è fatto, poi dicevi a me, ma com'è mi sono smalazzato un po' di roba? Nel senso che devo attaccare alimentatori, ci sono anche gli alimentatori che vanno elettrico, alimentatori, tutto il resto che c'è, le radio, eccetera. Vabbè, va, è troppo, dai. Tu devi capire una cosa, che la giornata c'ha un 0,75 di capo, il diametro, quindi è molto fino, molto piccolo. E quindi attaccando tanti armettatori, tanti baracchini, poi tra l'altro se qualche baracchino che ha qualche cosa di spinta in più, sono watt di più che consuma, scalda di più e ciccia. No, quelle che ho vanno bene, solo che ce n'è una che sta facendo difetto proprio dove accende, no? L'interruttore che si accende a volte a sbalzi, a intermittenza, quindi devo rispegnerlo, riaccenderlo per due o tre volte e poi si rimette a posto. Guarda che l'interruttore puoi cambiare, poi la Fusaro, te lo fai vedere uguale e glielo metti, è una fesseria già. L'interruttore, ma ce l'ho da poco, l'ho comprato da poco, sarà un mesetto che l'ho comprato e già mi sta facendo difetto, è proprio la ciabatta che non scivi. Dove l'hai presa già? Da Italy, dove faccio la spesa. Anche se ci va adesso c'è avevo scontrino un conto, sennò, ma se ti conosco tu dici guarda che non funziona più. Ma ce l'ho già un mesetto, dopo un mese vai lì. Vabbè, pazienza. Invece ne ho una che ho comprato dai cinesi, vi lascio una vita, non si è mai fasciato. Carlo, ci sei? Sì, ho passato Rio Manu, quel ponte che c'è, e inizio a vedere le luci del rifornitore sulla quattro corsie. Ho capito già dove sei, un bel po' distante, dai. Avanti. Perugia. Eia, Carlo, sto facendo con 5 watt, sempre bene mi senti? Benissimo. Marco, ci sei ancora? Prova tu a vedere se ti sento, ma penso di sì, Cappa Carlo, tu sei Santiago 8, Radio 5. Perfetto, adesso in questo momento sono proprio davanti al rifornitore. Mi sa che questa antenna, Carlo, va a 1000. 9.10 a me sta arrivando, Carlo. Sto uscendo con 40 watt. Comunque va bene, 9.10 qua, non ho capito, buono. Ho capito, già lo vedo, c'è il fotoreferentore passato. Sì, l'ho passato il rifornitore, tra un attimo termino la quattro corsie, giro a destra e prendo la provinciale a 2, da all'aeroporto, passo davanti a Milogu e poi giro nel rettilineo che c'è Samantra e poi sono arrivato. Ancora 10 minuti e arrivo a destinazione. Carlo, dai, voglio vedere così con 5 watt così quando mi ascolti. Comunque è passato a Tutumella, ho fatto capito, e poi Federazione dei Due Mari, giusto Carlo? Sì, esatto. Taglio da là, non faccio anche l'uruio, insomma, se ne mosca non ci fa, faccio nella vecchia strada, quella di cui si porta a Santa Maria la Palma, quindi dritto. Anche io faccio sempre quella, Carlo. È più corta di quasi 2 chilometri, è meno trafficata. Sì, io quando vado all'aeroporto faccio sempre quella. Beh, quella è più facile. Io quando invece vedevo un attimo Alghero, tiro dritto, poi da lì quel pezzettino faccio la salita. Sì, comunque così. Avanti, Marcus. Ma manca a me, siete più Marco. Magari spesso mangiare qualcosa. No, che sto facendo roba qua. Quindi bianco per me e Carlo riprendi. Ho messo il bip così almeno sai quando stacco, se dovessi essere troppo basso quando arrivi a destinazione. Riprendi Carlo. Perfetto, sentito adesso sì, anche bellino. Sì, sono nel rettilineo prima di Tutumella. Sempre 8. 8 radio un po' meno buona. Perché qua c'è qualche collinetta a 10 e quindi molte volte è quello, capisco, però generalmente chi è di casa, chi è in una buona posizione, una buona antenna, lo sento fino all'aeroporto. Smitterà LED, però grosso modo ci siamo. Va bene, bianco per me, vai Tonino. Carlo, a me se ti conto 9, la radio è un po' incomprensibile, penso che Gianni ti ascolta molto meglio perché la zona è molto più favorevole a parte tua. Avanti Gianni. Sì, io l'ascolto sui 9.5, dai. 9.5 da qua. La radio è buona, dai, l'ascolto bene anche di radio. Io ho QRM alto Gianni. Ma io non più di tanto. Ancora bene, lo sto bene, adesso in questo momento sono davanti a Tutumella. Cappa, adesso ti sei abbassato un po' di segnale, Carlo. Anche qua 7. Lo immagino, perché qua ci sono anche gli altri, la fila degli altri, e quindi non faccio bene. Comunque ti fai sempre sentire, sei sempre chiara la radio. Io ti fa la pena. Cappa. E dai, sei quasi arrivito. Ma io non ascolto quasi più. Non so se lui mi sta ascoltando, al limite fai da ponte tu, o Gianni. Carlo, mi ascolti ancora a me? Hai copiato tu? No, negativo, hai fatto da ponte. C'ho il QRM alto. Ha detto che praticamente ti senti ancora, che è vicino alla curva, non so di dove, e fra poco deve fare quella curva lì. Comunque ti senti. C'è questo QRM a smalzi, come 3.000 scale. Ma anche sui canali c'è QRM forte, Con il 3.009 non ne prendo tanto io, Io ho passato anche la telesturbo, niente, uguale. Porca miseria, è già un po' di giorni che c'è QRM, se ne può dare conferma che cosa mi? Marco, perché Marcolino ha sentito anche lui questo QRM la tua volta. Cosa c'è col Galaxy? Ehi? No, strano. E il Galaxy, a me non è bida quasi nuda. Vediamo un po', Marco, riprendi. Sì, io il QRM lo stesso ce l'ho altro, è roba elettrica, poi fa un rumoraccio tipo stridio, tipo motore elettrico, bruttissimo, perciò magari, però premetto che il 3009 è sempre il più silenzioso, tutti questi baracchinetti moderni SMD sono belli, tante funzioni, però sono un mondezzaio. Vediamo Carlo dove è arrivato, attenzione Carlo, mi copia ancora? K, copiato, rotatoria strana dei due, strada dei due mari, vai Tony. K, io ho il segnale, sale, scende, però negativo la radio, mi dispiace che non lo sento, ho detto Gianni fammi la ponte tu, perché non lo sento, non so neanche se mi sente più lui a me, avanti, se mi senti Carlo. Sì Tony, ti sente Santiago 78, radio 4. Io lo sento parlare, però è talmente disturbato dal QRM, perché non lo so, se non c'era QRM, guarda, era una meraviglia, era, porca miseria. K. E a me sempre bene mi ascolti Carlo con 5 watt. E non so, lui c'ha più watt di me, ne ha 30 mi pare, io ne ho 5. Ma dall'antenna ne escono la metà, 15 watt. Proviamo così, va. Come mi ascolti così Carlo? K, dai, vabbè, spegniamo, dai che distrutto. Comunque anche qua è al limite Carlo, ma non tanto per il suo segnale che c'è, per questo bulotto che sento di fondo, da quando c'è il ponteggio è una cosa terrificante. Anche qua c'è il rumore, il QRM fa, aumenta il segnale poi, ma io non ho mai visto il QRM così alto, molte volte non c'è nulla, il QRM è quasi 0, 1, 2, adesso è proprio alto, 7, 8, che cavolo. Io sono l'unico fortunato. c'è l'antenna silenziosa tu, cacchio. Non si sente nulla, proprio appena appena. Non ho voglia di cambiare baracchino, lascio stare cose qui ormai, adesso purtroppo me ne vado e mi guardo la televisione. Capo Carlo è già arrivato quasi, così è già. Io, sì è quasi arrivato. Carlo dove sei adesso? Davanti a Samandra. Adesso sto cominciando a sentirti poco Carlo, ti sento basso basso. Capa dai, io vi saluto tutti dai Carlo, ciao, buon lavoro quando arrivi. Vi saluto tutti, vi lascio qua perché sennò sale il cane e non trova la roba da mangiare, dai, ciao ciao. E anch'io chiudo, dai caro, se mi stai ascoltando, buon trabacco, ci sentiamo alle prossime, al limite fate voi da ponte per salutarlo perché io non lo sento, avanti Marcolini. Sì, anche qua è sparito, proprio non è più comprensibile, va bene, buona serata a tutti, buona cena, buon tutto, Carlo, buon lavoro, buon proseguimento di serata e ci sentiamo in altre occasioni, vai se mi hai copiato. K, allora, vi sente tutti, anche Tonino arriva, Gianni arriva, anche Liscio, e ha contraccambiato i saluti, e quindi ha detto ci sentiamo, saluto a tutti. Ok, grazie Marcolini, ciao di nuovo Carlo, buon trabacco, buon tutto, vai. Ok Marco, dai, io me ne vado a dire con la televisione, perché quando dice poi Maria Calippi c'è il supposto per te, me la voglio guardare, dai. Ok, ciao Gianni, ciao Carlo, Marcolino, state bene, buon proseguo, ci sentiamo di serata, ciao ciao. Cappa, ciao a tutti, ciao. Ti ho sentito sotto sotto, Carlo, però non riesco a tirarti fuori, c'ho questo QRM alto, peccato, mi dispiace, dai. Santiago 9 sta arrivando, però a radio, proprio disturbato da questo QRM, mi dispiace. Ok, Carlo, dai, buono tramacco, buon tutto, spiego il tutto e vado in cucina, ciao ciao.